Incontri di Gianfranco Fabi. Io mi svesto e mi rivesto, anima non ho. So che è duro dire basta e a volte non si può. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica e che buona estate. A quanti ci ascoltano, forse l'avete riconosciuta, Clara Moroni, bambina brava. Clara Moroni è qui con noi questo pomeriggio. Buongiorno e buon pomeriggio. Buongiorno, ciao a tutti. Bambina brava, ma come è venuto in mente questo titolo di Bambina Brava? No, sì. Beh, è una canzone, quindi è venuto il titolo all'interno della canzone, quindi spiegando una storia. Clara Moroni, cantante, perché avete sentito, ma anche imprenditrice, anche corista di Vasco Rossi. Sì. Quindi poliedrica, una grande esperienza. E hai già udito giovanissima nel mondo della musica. Come mai subito nella musica? Ma mi sono piaciuti i Sex Pistols quando ero molto piccola e allora ho detto qui bisogna fare qualcosa e poi da lì, poi tra parentesi, ho sempre cantato e anche i miei amici mi dicevano ma hai una bellissima voce, però non avrei mai veramente pensato di farlo, cioè alla fine non mi hanno scoperto gli altri, cioè mi hanno... Beh, capita così quando sia successo, perché gli altri si scoprono, insomma, e quindi devo essere grati a quanti ci scoprono. Però ecco, poi parliamo magari appunto anche delle canzoni, parliamo anche di Vasco Rossi, però quello che forse è interessante è anche imprenditrice. Cosa vuol dire essere imprenditrice nel settore musicale? Beh, vuol dire innanzitutto aprire una società, quindi avere già a che fare con una realtà che potrebbe anche essere considerata lontana dal mondo artistico. Quindi avere a che fare anche con delle problematiche imprenditoriali, specialmente ultimamente. E poi vuol dire controllare, diciamo, al 100% l'aspetto commerciale della propria musica. Quindi avere un'etichetta, avere sì, una casa di produzione. Una etichetta discografica, non solo, anche una casa di edizione. Si controlla sia cioè, la parte, diciamo, di royalties, cioè delle vendite, ma anche dello sfruttamento della musica. Ecco, in parole povere, si producono dei dischi. Sì. Sono ancora di moda i dischi, perché dicono che non si usano più, cioè ci sono gli MP3 adesso, ci sono delle cose, sono il download. Beh, io, allora, noi come etichetta, come si chiama Delta Music Industry, noi lavoriamo prettamente per il Giappone. Abbiamo avuto la fortuna di avere questo contratto di esclusiva con una major giapponese che è l'Avex. Quindi in Giappone il vinile va ancora, perché loro, cioè i giapponesi sono molto amanti del... Non sono molto feticisti, quindi gli piace proprio cioè l'oggetto disco. Quindi noi abbiamo ancora oggi facciamo delle produzioni in vinile. In Italia c'è stato un periodo in cui si è tornati a fare così per vezzo il vinile, però in realtà sì, la musica circola su MP3. Ma che tipo di musica piace ai giapponesi? Quella normale, pop, rock, moderna? Sì, sì, pop, techno, molto aggressivo, molto veloce. Poi noi facciamo anche tutte le... Cioè i giovani giapponesi sono uguali ai giovani italiani? No. Secondo me no. Sono molto più... Sono pieni di passioni, sono molto più... Si aggregano di più, hanno più amore per la musica, per i concerti. Cioè li trovo molto più... Gli piacciono di più, mi sembra. Sì. Questo perché le piacciono di meno i giovani italiani? No, perché quando vado lì vedo che c'è una gioventù che pulsa molto di più, cioè che proprio ti trasmette anche, cioè ti rinfresca. Ecco, qua qui invece a volte noto una certa stagnazione. C'è più passività, c'è più... irrequietezza, ma che non si esprime magari, oppure c'è più tradizione, oppure sono più appagati i giovani italiani. No, secondo me sono più come si dice, persi, ecco, sono un po' più dispersi, sono più persi, mentre invece comunque in Giappone per la loro tradizione, per la loro cultura sono più abituati a seguire comunque un flusso e all'interno del flusso, che poi alla fine è anche abbastanza diciamo stabilito, crearsi dei propri Ma spazi. Esiste una musica giapponese? Sì, esiste la musica tradizionale, e, però vabbè... Che cioè, non è la sua, tipo insomma. Tipo Sakura, queste cose qui. Sono molto... Loro adorano poi l'Italia, adorano l'opera, e adorano... Per cui c'è un legame molto karmico, sì, tra Italia e Giappone. Cina no, No, la Cina non sono mai stata, non lo so. Abbiamo avuto un gruppo di un trio femminile che ha fatto una nostra cover di un pezzo per la Cina in mandarino. Sì, infatti è stato bellissimo sentirlo. Ho capito, quindi parlato in lingua cinese. Ecco. Esatto. Ecco, ma il Giappone, allora torniamo un po' sul Giappone. E forse avendo questo successo, perché di fatto avete avuto un successo con queste... Certo. Ecco, forse l'Italia sottovaluta le potenzialità del Giappone, come anche al di là della musica, dico come industria, come moda, come possibilità di esportazione, di relazioni. Beh no, io credo che, cioè, anzi penso che i più grandi stilisti, cioè Armani pochi anni fa ha inaugurato la Ginza Tower, dove io sono anche stata, e cioè, voglio dire, anzi assolutamente. Poi ripeto, c'è, cioè, il Giappone, il Made in Italy è, per loro è una griff. Quindi è ancora un paese ricco, dinamico. Beh oddio, ricco e dinamico, diciamo che non è più la leonessa d'Oriente, questo con loro... sommo rammarico, purtroppo, perché la Cina è avanzata a passi da gigante, però è sicuramente un paese molto più, anche a livello tradizionale, culturale, cioè si fanno ancora buoni affari, cioè, con il Giappone. Beh, il primo paese occidentale dell'Asia, anche se adesso tutti gli altri paesi stanno diventando come modelli di vita occidentali, però sicuramente è un paese che ha anche delle regole all'interno della società che sono molto prese dall'Occidente, pur mantenendo appunto le loro, sì, tradizioni. Sì, molto molto. Se dovesse scegliere tra vivere in Italia e vivere in Giappone? Ma quando, una delle prime volte che sono andata in Giappone, ho pensato di fermarmi lì 6 mesi, però il problema è che, cioè, se uno esce appena dai percorsi, diciamo quelli che più noti, dove ci sono anche le scritte in inglese, così diventa molto difficile, cioè nel senso imparare la lingua è veramente difficile ed è molto difficile anche relazionarsi con loro, quindi no, è stato va bene 10 giorni e poi andare via. Fare un po' di business magari, no, ecco. No, girare, è bellissimo, il Giappone è bellissimo. Dove consiglierebbe di andare a qualcuno che ci ascolta, che magari vorrebbe andare in Giappone a fare una vacanza? Ma, oltre a Tokyo, che vabbè, è indispensabile, perché ci si arriva. Chiaro. Tokyo sicuro, Kyoto, che è la città praticamente, come per noi, una specie di... è una città santa, insomma, dove ci sono tutti i templi buddisti. E poi andando giù a Fukuoka, che è nel sud, dove ci sono delle spiagge bellissime e si mangia benissimo. Io credo che la cucina, si può equiparare anche la cucina italiana con quella orientale, cioè con quella giapponese, non per gli stessi ingredienti, ma certo, per la varietà e per la ricchezza e per la sofisticatezza proprio della cucina. Ma ieri sera ho mangiato giapponese. Ma i ristoranti giapponesi a Milano sono veramente giapponesi? Ma io la prima volta che ho mangiato giapponese l'ho mangiato là. Quando sono tornata li ho trovati molto simili. Molto, cioè, simili. Sì, cioè il sushi, vabbè, insomma. Vabbè, sushi va bene, però ecco, certi modi di fare, di presentarsi. No, no, là sono incredibili. Poi c'è la cucina del nord, del centro, del sud, delle isole, cioè è molto più varia. Ecco, ma restiamo sulla musica, magari torniamo in Italia. Esatto. Torniamo in Italia, torniamo appunto alla dimensione poi che è sua della sua musica, la musica che è sua, sì, ma che è anche con Vasco Rossi poi, perché sì, sì. Come concilia queste due cose di essere una parte dell'ensemble, come si chiama? Della band di, esatto, Vasco Rossi con il fatto di fare poi delle cose anche in proprio. Ma in realtà sono tornata a fare delle cose mie, perché appunto avendo all'inizio fatto dei dischi, poi ho aperto l'etichetta e poi l'incontro con Vasco, quindi mi sono un po', diciamo, scrivevo delle cose ma le mettevo nel cassetto, anche perché a me piace molto vivere, quindi preferisco più vivere che lavorare. E allora insomma, e niente, quindi tornandomi la voglia poi negli ultimi 2 anni, concilio, anche perché abbiamo fatto un lungo tour 1 anno e mezzo fa, quello indoor. Però ci sono stati anche dei periodi in cui siamo stati liberi e quindi io sono riuscita a fare questa cosa. Com'è nata questa solidarietà, questa unione? Questo sodalizio. Sodalizio, ecco, mancava la parola con Vasco Rossi. Questo sodalizio nasce perché il suo produttore nel 93 è uscito il disco Gli Spari Sopra, che è un disco che contiene poi alla fine le ballad più conosciute e più famose, più classiche, come Stupendo e Vivere. E in queste canzoni c'era bisogno di un tessuto vocale, cioè diciamo dei cori pensati, studiati. Allora, è una mia specialità, quindi mi hanno chiamato per fare questa cosa. Provino è andata bene? No, io già avevo lavorato già anche con Giovanotti, con la Bertè, queste cose qui. E okay, quindi niente. E poi da lì, dopo è iniziata una lunga strada. Dal vivo mi ha chiamato per i tour, e perché gli mancava appunto quella voce lì, nessuno dell'altro gruppo poteva cantare, quindi l'ho fatto io. E beh, insomma, comunque, ho accettato, insomma, però è stata un'ottima scelta. Vuol dire avere una bella voce, insomma, come sì, potete abbastanza, anche sentire. Perché non si può mentire. Non si può mentire, soprattutto una vocalità, poi una capacità di espressione della voce in senso musicale. Ancora con la voce musicale di Clara Moroni, ma Clara Moroni è qui in persona con yes. noi oggi pomeriggio. Buongiorno ancora, buongiorno, buongiorno. Buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Clara Moroni, cantante, imprenditrice, abbiamo parlato molto nella prima parte della professione di imprenditrice appunto in campo musicale, soprattutto in Giappone, dove ha avuto grandi successi non solo con i suoi dischi ma anche con i dischi di altri, perché poi... Sì, noi produciamo vari artisti infatti. E quindi il mercato giapponese, diceva, è un mercato accogliente, un mercato ricettivo, sì, un mercato in cui si ottengono dei buoni risultati. Ma poi abbiamo parlato di Vasco Rossi, perché Clara Moroni è corista di, ecco, tra l'altro mi dicono gli esperti che è l'unica donna nell'ambito, sì. della si sente un po' privilegiata, isolata? No, mi sento privilegiata e adoro, sono sempre, cioè, avendo lavorato in campo musicale fino da quando avevo tipo 14 anni, sono abituata e mi piace molto stare insieme ai maschi. Infatti io li vedo sempre come compagnoni. Quanti siete nel gruppo? Sette. Ecco, forse qualcuno vorrebbe che chiedessi com'è Vasco Rossi da vicino. In senso fisico? No. Il senso fisico si vede, esatto. Ma proprio magari dietro le quinte, quando esce dal palcoscenico con la sua... No, lui è un artista, cioè è una persona vera, e quindi lui è così. Rispondo sempre che come lo vedi è così, cioè non c'è un'altra... Non ci sono pose, non ci sono... C'è una vita spericolata e spericolata e basta. Quando la fatta fa le sue vite spericolate, sì, e quando sta tranquillo, però diciamo non c'è una maschera, non c'è una, cioè lui. Una posa, è lui anche dietro le quinte, lui è sempre lui, anzi forse è più lui sul palco che fuori, cioè. Quindi, è difficile lavorare con Vasco Rossi? No, è facilissimo, perché è una persona, a parte che non vorrei dirlo io, però beh, visto che ci siamo me lo dico, sceglie comunque i collaboratori migliori. Beh, ogni tanto li licenzia anche, però li manda via. Sì, però vabbè, poi dopo tornano sempre tutti, adesso io non lo so, però mi sembra che poi alla fine il suo entourage sia sempre, io lavoro con lui da 16 anni, quindi non lo so. Com'è cambiato in questi 16 anni la sua vita e magari quella di Vasco Rossi, come l'ha visto la prima volta e come lo vede adesso, e come si sente, come si sentiva 16 anni fa, come si sente adesso? Beh, è sicuramente diventato molto molto più simpatico. E... Lo sposerebbe? No. No, io non mi sposerei mai proprio io, quindi... molto, molto più simpatico e... più sicuro di sé, più... all'inizio era molto più chiuso, anche più cupo, invece adesso è molto più... poi adesso, insomma, non è che io lo conosco veramente tanto nel suo privato, come lui non conosce, cioè il mio, però insomma quando si sta insieme, sì, per certo. tanto tempo ci si vedono certi aspetti. Lui è di una simpatia assoluta, quindi... Ecco, ma dà dei messaggi che ogni tanto sembrano un po', anzi sono abbastanza trasgressivi, no? Non si sente un po' responsabile di dare ai giovani questa voglia di trasgressività? Ma dipende... Ma è trasgressiva forse? No. Ma oddio, oggi come oggi trasgressione è un parolone, perché non capisco più quale sia la trasgressione, cioè ne abbiamo viste, sentite, fatte tutto di tutti, quindi... Ecco, forse un po' troppo. Beh, diciamo che più si trasgredisce, meno si trasgredisce, perché alla fine si perpetrano sempre i soliti comportamenti, quindi alla fine la trasgressione cosa diventa? Allora, diciamo che era più bello trasgredire un tempo, quando magari c'era proprio il tabù. Adesso invece non è più un tabù nulla. Per quanto riguarda il messaggio, dipende sulle cose che dice o sui suoi vecchi pezzi. Sui suoi vecchi pezzi io sono arrivata che li aveva già scritti, io tra parentesi non li conoscevo tutti, quindi io l'ho conosciuto come artista e come persona, che era già molto famoso, e quindi quelli sono venuti prima di me, io non c'entro niente. Ecco, ma quindi mette anche, diciamo, non il becco, mette anche voce sulla, sui pezzi, sulla no, quello no. No, ci sono state magari più una questione, diciamo, di tour, delle volte si è discusso su che pezzo mettere o se toglierlo, se metterlo prima avanti, no? Però in generale sono spettacoli che sono già super rodati, poi essendo sempre più o meno ogni anno in attività. Quindi ecco, è una, diciamo, una struttura rodata, una struttura magari calibrata anche sulle esigenze del pubblico, si sente forse più del fatto di rispondere a quello che vorrebbe il pubblico più che di proporre dei messaggi diversi? No, io credo che lui scrive quello che si sente lui, quello che vive lui. Anche in questo è un artista comunque sincero, cioè lui non... cioè descrive quello che sente lui, non si inventa delle cose, cioè, per il momento, anzi, cioè, non si sente di dover dare un messaggio, di fare, che so, un missionario di un messaggio, no, lui... positivo, è un messaggio trasgressivo comunque. No, non è, beh, oddio, un messaggio positivo, esempio, quando ha scritto nel 96 la canzone Se non appari mai, faceva già, diciamo, una critica al fatto che se non appari in TV non sei nessuno, certo. E c'erano già anche, oppure gli spari sopra, cioè, o c'è chi dice no, insomma, ci sono anche dei messaggi che sono non trasgressivi così fine a se stessi, cioè in senso epicureo, però cioè, anche dei messaggi politici, cioè, tant'è vero che io delle volte penso, no, che quando uno vede un concerto di Vasco Rossi non può non uscire certo. E andare a casa. Sì, ma non vorrei parlare solo di Vasco, esatto. Rossi, perché parliamo di lei. Dovrebbe prendere e fare la rivoluzione. Certo. Parliamo di Clara Moroni, ecco. Come vede il suo futuro? Ah, non lo so, non ho idea, ho imparato a vivere la giornata. A vivere la giornata, sì. Però ecco, un'imprenditrice dovrebbe avere un progetto non tanto, sì, adesso... di business, ma anche di vita personale, escluso di mettere, certo, su famiglia, del tutto? No. Ma non lo so, adesso vediamo. Capita però... anche dagli incontri si possono sempre fare. Esatto, però non ci penso, quindi... no, vabbè, a parte... l'etichetta che continuerà in Giappone, poi noi abbiamo, appunto, facciamo anche colonne sonore per manga, tipo anche famosi in tutto il mondo, anche in America, tipo Initial D. Qua in Italia sono meno famosi perché sono arrivati altri titoli, però c'è in giro per il mondo, ci sono dei manga molto famosi, specialmente in Giappone e in America. E quindi le colonne sonore sono, sì, fatte le prendono sì, dal nostro catalogo, tanti tantissimi videogames, e poi ci sarà, sto lavorando adesso in questi giorni con un collaboratore nuovo, è una nuova, veramente, cioè conoscevo già da molti anni, ma come persona, come musicista, come amico anche, ho scoperto una persona eccezionale che è Luigi Schiavone, che è il chitarrista e anche compositore che lavora con Enrico Ruggeri, e sto in pratica lavorando appunto per l'uscita del prossimo disco, che dovrebbe essere per fine settembre. Com'è cambiata nella sua esperienza, che non è brevissima, comunque è abbastanza recente, anche il modo di fare musica, di comporre la musica, cioè l'elettronica è entrata anche nella dimensione proprio della progettazione musicale? Sì, è cambiato nel senso che una volta si faceva un disco e ci si trovava in uno studio e si faceva il disco. Adesso invece ognuno di noi, ogni musicista, ogni compositore, cioè chiunque, ha il suo computer con la sua connessione internet e la capacità di fare musica diciamo in proprio. Quindi, per esempio, su questo album ci sono stati dei pezzi dove abbiamo fatto dei pezzi ma non ci siamo mai incontrati, nel senso che io mandavo via internet delle tracce, e il batterista mi mandava le sue tracce, il bassista, e poi il fonico praticamente ha raggruppato tutto e ha fatto il disco, che era un po' come quando facevano i dischi, i gruppi che si odiavano, non so, tipo, non mi ricordo più, insomma, che non so, i Pink Floyd, ecco, che uno andava in studio quando non andava quell'altro, ecco, invece adesso ognuno può può odiare, ci si può odiare e lavorare insieme con me. Ecco, quindi... però il rapporto, la vicinanza, il contatto, lo scambio di idee, lo scambio di umori, di sensibilità resta importante, come si fa con un computer. Però cioè, lo scambio avviene perché tu mandi una parte della tua creatività e poi viene questa creatività viene elaborata in proprio da un altro che ti rimanda poi alla fine la cosa. Quindi alla fine è comunque sempre uno scambio creativo. Che cosa sta lavorando adesso in questo periodo in previsione per l'annata 2012-2013? Adesso per la mia musica, sì. Ho finito di fare ieri un testo su questo pezzo. Che si chiama? Ricomincerò. Perché ricomincerò? Perché sì, c'è una sillaba in più. Se no era comincerò. Comincerò vuol dire lasciare qualcosa o lasciarla o rifarla. È più no. Lasciarla o più rifarla? No, è più ricominciare a farla. Ricominciare a farla. Quindi continuare a fare musica non solo per i giovani? Ma beh, io sono maturata, quindi sicuramente questo lavoro, il mio prossimo lavoro sarà diverso da quello che ho fatto prima. Lo lasciamo in sospeso, non sveliamo segreti. Eh no, perché poi torno e ve lo faccio sentire. Allora, un prossimo incontro magari del 2013 con Clara Moroni, che intanto ringraziamo di essere stata simpaticamente voi. Con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Peter Bascapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica. Grazie.